San Bruno nasce intorno all'anno 1030 a Colonia, in Germania, da una famiglia nobile. Non abbiamo purtroppo notizie su quella che su chi era il papà, la madre. Sappiamo che era una famiglia nobile e lui, ancor giovane, molto giovane, andò a studiare alla scuola del Duomo di Reims in Francia. Vi rimase circa 30 anni e fin dal 1057, quindi aveva 27 anni, l'arcivescovo di quella città, Gervasio, gli affidò l'alta funzione di scolasticus, cioè la direzione della scuola cattedrale di cui era stato studente. Allora diciamo che Reims era il più importante centro intellettuale dell'epoca. E proprio nella scuola questo ruolo era di primissima importanza perché il responsabile doveva vigilare sia sulla sana dottrina dei maestri e degli studenti. Era oltretutto lo scolarca il più delle volte anche un professore, infatti sappiamo che San Bruno insegnava ai suoi studenti teologia. Era un uomo di grande levatura, di grande statura morale, intellettuale, un uomo che ascoltava, rispettava, non imponeva mai la sua autorità agli studenti. Ebbene, questo giovane maestro si trovò così, come dicevamo, a capo di un centro di cultura la cui fama era stata estesa in tutta l'Europa da uno dei suoi predecessori, il celebre Gerberto, prima che diventasse papa col nome di Silvestro II. E Bruno fu degno della carica assegnategli. Esercitò un influsso profondo fra i suoi discepoli, molti dei quali divennero celebri vescovi, abati. Uno di loro fu il beato Urbano II, il papa. Ma Reims non fu per il nostro santo solo il luogo del suo magistero. Fu anche per un certo periodo, verso la metà degli anni 70, teatro di una dura prova che lo farà entrare in contatto con i problemi più vivi e controversi che agitavano allora la Chiesa. Ed erano l'acquisto simoniaco delle cariche. Allora le cariche in molte occasioni venivano comprate, quindi si diventava vescovi o abati comprando la carica dal re. Il confronto ancora con il potere politico e religioso della Francia e soprattutto poi la riforma della vita religiosa. C'era molto lassismo, erano delle cose veramente che insomma lasciavano l'amaro in bocca nel vedere il clero ridotto a quelle schiavitù. E proprio in questa prova Bruno avrà modo di forgiare ancora di più il suo carattere, di misurarsi con la mortificazione e con l'esilio anche, come vedremo, di maturare la propria personalità verso quella scelta che da lì a qualche anno lo condurrà poi nel deserto monastico. Il tempo è quello in cui è Papa Gregorio VII, nel 1073, e che si trova coinvolto nel conflitto con l'imperatore di Germania, Enrico IV, causato dal problema delle investiture. Allora sappiamo che le investiture, il Papa voleva assumersi il diritto unico ed esclusivo di investire lui, i vescovi, mentre invece l'imperatore, dal canto suo, voleva continuare quello che già Carlo Magno aveva iniziato a fare nell'Ottocento, cioè l'investitura dei vescovi, ma naturalmente molti vescovi non erano neanche preti, neanche sacerdoti, quindi molti di loro erano soltanto fedeli all'imperatore, uomini fedeli a lui, e quindi compravano queste cariche. E anche la Chiesa francese è coinvolta in questa crisi. Il Papa, riguardo alla Francia, affronta il problema inviando un proprio legato. Si chiama Ugo di Die. Ugo dimostra grande fedeltà a Gregorio VII, ma forse anche un'eccessiva intransigenza che rischia di approfondire i contrasti tra le parti invece di sanarle. E nella chiesa di Reims i principali protagonisti della crisi, purtroppo, sono il vescovo di Reims, Manasse di Gournay, che ha ottenuto anche lui la dignità episcopale intorno al 1068 comprando il titolo, uomo che si rivela anche avido di beni temporali, dall'altra parte invece è il capitolo cattedrale che gli è profondamente ostile e avversa la sua condotta giudicata non certo esemplare. Qui interviene Papa Gregorio VII, che invia a Manasse nel giugno del 1073 una lettera molto severa, ricordandogli come più volte anche i suoi predecessori gli abbiano richiesto di non vessare ulteriormente i monaci di Saint-Rémy, dell'abbazia di Saint-Rémy, e di smettere di impossessarsi dei loro beni. Da uomo avido qual era, l'abbazia di Saint-Rémy faceva parte, era ricca di beni e faceva parte della sua diocesi, e quindi faceva di tutto quello che poteva a man bassa. In quel momento muore il cancelliere dell'arcivescovado e bisogna trovargli un successore. Immediatamente i canonici riformatori sono dall'arcivescovo, da Manasse, vogliono Bruno, un uomo retto ma che non piace assolutamente all'arcivescovo. Infatti il cancelliere ha l'incarico di firmare gli atti dell'arcivescovado, quindi tutto deve passare tra le sue mani, e visti i piani che aveva lui, ci teneva poco Manasse ad ammettere al corrente di tutti i suoi affari un uomo come Bruno. Resiste quindi, ma davanti alle istanze di tutti si rende conto che sarebbe impolitico cominciare il suo episcopato offendendo il suo clero e il suo popolo, e allora cede. Il nostro santo esercita quindi questo ufficio dall'ottobre del 1074 fino al 1076, quando proprio in seguito alla lotta scatenatosi contro l'arcivescovo è costretto addirittura a lasciare Reims e a rifugiarsi presso il conte Ebal de Russy, in compagnia tra gli altri di altri suoi amici, che erano Rodolfo il Verde, Ponzio e altri. Era una situazione insostenibile, e nel settembre proprio del 1077 numerosi canonici di Reims, tra i quali anche Bruno, presentarono gravi accuse contro l'arcivescovo. L'arcivescovo che si rifiuta di presentarsi e di giustificare il suo atteggiamento. La sentenza del Papa è la sospensione dall'incarico per aver ottenuto la dignità arcivescovile con simonia, quindi comprandolo, e aver consacrato contro la volontà del Papa il vescovo di Senlis, che ricevette l'investitura direttamente dal re Filippo, re di Francia. È proprio in questa occasione che il legato pontificio, Ugo di Die, relazionando al Papa, tesse un encomio di Bruno e scrive: «Santità, vi raccomandiamo il signor Bruno, maestro in tutta onestà nella chiesa di Reims. Merita di essere confermato nelle cose di Dio dalla vostra autorità, perché è stato giudicato degno di soffrire persecuzioni per il nome di Gesù. Vogliate dunque impiegarlo come vostro consigliere e cooperatore per la causa di Dio in Francia». Ma Manasse non si dà per vinto. È un ottimo oratore, e tra il marzo e l'estate del 1078 prima si reca a Roma convocato da Gregorio VII e riesce a far annullare la sanzione contro di lui. In un secondo momento poi scrive una lettera al Papa accusando il conte Ebal de Russy di causare lacerazioni nella chiesa. Il conte naturalmente era accusato di questo perché proteggeva Bruno e gli altri canonici della cattedrale che erano contro le malefatte di Manasse. Arriviamo nel febbraio del 1080, viene riesaminato il caso dell'arcivescovo e Gregorio VII indice addirittura un nuovo concilio a Lione, ma l'arcivescovo non si presenta, invia un testo invece che viene definito l'Apologia, nel quale spiega il suo impedimento a partecipare. Non solo, attacca Bruno e Ponzio. Il testo dell'Apologia è molto duro nei riguardi di Bruno e di questo suo amico Ponzio. Viene trattato con asprezza il nostro santo, anzi considerato una sorta di forestiero di cui non si conoscono la vita e le effettive qualità morali. Giudicato come un ingrato, pronto a non ricambiare i favori che gli vengono accordati. Scrive Manasse a questo proposito. «Io vi dico», scrivendo al Papa, dice, «io vi dico che mi sono già accordato con tutti, eccetto due, dei quali uno, Bruno, non è nostro chierico, non è nato né è stato battezzato tra i nostri, ma è canonico di San Cuniberto di Colonia, nel regno teutonico», in Germania quindi. «Non do molta importanza alla sua compagnia, poiché ignoro la sua vita e la sua franchezza. Quando stava con noi, l'ho colmato di favori e sono stato trattato male in modo indegno». Non è assolutamente vero, abbiamo visto che Bruno è stato messo a fare il cancelliere da Manasse soltanto per scopi evidentemente solo politici. Comunque, nonostante questa autodifesa, l'arcivescovo viene destituito. Nell'aprile seguente il Papa gli scrive e gli offre anche una via d'uscita. potrà difendersi a condizione che, tra l'altro, restituisca a Bruno e a chi ha testimoniato contro di lui i loro beni e che lasci inoltre Reims per ritirarsi a Cluny, nell'abbazia di Cluny, o a Chesdieu. Insomma, di fronte alla mancata risposta di Manasse, Gregorio VII, il 27 dicembre del 1080, lo fa decadere. A questo punto l'arcivescovo lascia Reims, non ha più ormai nessun appoggio, e si reca, ci viene detto molto probabilmente, presso l'imperatore di Germania Enrico IV, che era in lotta con il Papa in quel momento. Qui Gilberto di Nogent offre un vivace ritratto di questo arcivescovo, interessante per delinearne bene gli aspetti e chi era. Perché diciamo questo? Perché proprio in questo periodo, proprio con la mortificazione che San Bruno vive nel vedere gli atteggiamenti di questo suo superiore, di questo rappresentante di Dio, dovrebbe essere tale, matura sempre più nel suo cammino spirituale la sua convinzione di andare, di farsi monaco, di uscire dal mondo e quindi di gustare veramente l'incontro con Dio nel silenzio e nella contemplazione. Scrive Gilberto di Nogent: alla morte del famosissimo arcivescovo Gervasio, un certo Manasse si introdusse in modo simoniaco nel governo della predetta città, cioè a Reims. Era un uomo certamente nobile, ma non aveva quella serenità d'animo che innanzitutto si addice alla nobiltà. La sua carica elevata produsse in lui tanta alterigia che lo si vide imitare la maestà reale delle nazioni straniere e addirittura l'arroganza di tali monarchi. Gli era molto gradita la compagnia dei cavalieri e trascurava il clero. Sembra che una volta abbia detto: sarebbe una buona cosa l'arcivescovado di Reims se non si dovesse cantar messa. Insomma, alla fine di questa controversia, nel 1081, la sede episcopale della città è vacante, bisogna trovare quindi un nuovo arcivescovo. Viene a questo proposito designato Bruno, ma il nostro santo, come farà poi alcuni anni più tardi, come vedremo anche per l'episcopato di Reggio Calabria, non accetterà la designazione. Intanto, proprio le lunghe lotte interne della chiesa di Reims ci hanno consegnato un Bruno pienamente maturo, in grado di assumersi le proprie responsabilità. Proprio, dicevamo, in quegli anni difficili, nasce la sua vocazione alla vita monastica. In una lettera lui stesso racconta quell'inizio fervoroso. Egli e due suoi amici, pieni di amore divino nel cuore, nel giardino di un loro amico, di un certo Adamo, avevano fatto voto di consacrarsi a Dio. Erano presso questo loro amico perché perseguitati allora da Manasse e quindi erano protetti da questa persona. Comprendiamo meglio però leggendo la lettera che San Bruno inviò al suo amico, suo carissimo amico Rodolfo il Verde, e da cui spererà sempre che prima o dopo mantenga la promessa di associarsi e di diventare anche lui monaco. Non sarà così, ma diventerà poi prevosto Rodolfo il Verde. Ma leggiamo questa lettera di San Bruno. Ricordi dunque, mio diletto amico, si rivolge a Rodolfo il Verde, come un giorno, trovandoci insieme io, tu e Fulcuio, nel piccolo giardino adiacente alla casa d'Adamo, dove allora ero ospitato, abbiamo parlato per qualche tempo, credo, dei falsi allettamenti e delle ricchezze periture di questo mondo e delle gioie della gloria eterna. Allora, infiammati di amore divino, promettemmo, facemmo voto e decidemmo di lasciare quanto prima i beni fugaci del secolo per captare ciò che è eterno, nonché di ricevere l'abito monastico. Questo proposito sarebbe stato attuato se Fulcuio allora non fosse partito per Roma. Ne rinviammo l'esecuzione al momento del suo ritorno, ma poiché tardava e intervennero altre cause, l'animo si raffreddò e il fervore svanì. E proprio da questa frase, cari amici, cioè quando dice decidemmo di lasciare quanto prima i beni fugaci di questo mondo per andare verso i beni eterni, questa è la chiave che ci aiuta a capire la vocazione del nostro santo. Bruno, l'innamorato di Dio veramente, sa che il mondo, quando anche fosse prodigo di ricchezze, successi e gloria, è il luogo dell'inquietudine e della miseria e che tutto è destinato a morire, a perire. Poco prima, infatti, in un altro famoso paragrafo della stessa lettera, ricorda come l'esperienza dell'eremo, la consuetudine con la cella, il dialogo di amore con Dio costituissero proprio il cuore della scelta monastica. E scrive: «Quanto utilità e gioia divina rechi la solitudine e il silenzio dell'eremo a coloro che li amano, lo sanno solamente quelli che ne hanno fatto esperienza». Qui infatti, scrive San Bruno, nell'eremo, qui infatti agli uomini forti è consentito raccogliersi quando desiderano e restare con se stessi, coltivare assiduamente i germogli delle virtù e nutrirsi felicemente dei frutti del paradiso. Qui si conquista quell'occhio il cui sereno sguardo ferisce d'amore lo sposo, cioè Gesù, e per mezzo della cui trasparenza e purezza si vede Dio. Qui, per la fatica del combattimento, Dio dona ai suoi atleti la ricompensa desiderata, cioè la pace che il mondo ignora e la gioia nello Spirito Santo. La strada ormai è tracciata. Bruno ha deciso, comprende che Dio lo vuole portare lontano, nel deserto, e lascia Reims. Lo lascia con due suoi amici, che sono Pietro e Lamberto, ma prima di far questo dona tutti i suoi averi ai poveri. Poi, insieme a Pietro e Lamberto, si dirige nell'abbazia di Molesme da San Roberto, che fu uno dei fondatori dell'ordine cistercense. È l'anno 1083 e Bruno ha la bellezza di 53 anni, pensate. In quel tempo, come ha finemente osservato Bernard Bligny, le possibili scelte esistenti di vita religiosa orientate proprio al rinnovamento spirituale erano diverse. C'era, dicevamo, l'abbazia di Cluny, la Chaise-Dieu, la stessa Molesme, Grandmont, questo in Francia. In Italia, per esempio, c'era Camaldoli, San Romualdo, che fondò appunto l'ordine dei Camaldolesi, c'era Fonte Avellana, Vallombrosa, poi Irsau in Germania. Ma l'anima di Bruno era alla ricerca di una strada diversa, orientata verso una vita più rigorosa rispetto a quelle forme di vita eremitica della prima metà dell'undicesimo secolo. Voleva fondere l'ideale degli anacoreti con quello dei cenobiti. Gli anacoreti erano quelli che, come sappiamo, che conducevano una vita solitaria ad imitazione degli antichi padri egiziani del deserto. Pensiamo a Sant'Antonio nel 250 d.C., San Pacomio. Invece il cenobio indica il tipo di monastero nel quale si svolge la forma di vita monastica detta cenobitica, cioè è una vita contrassegnata invece da pratiche comunitarie. Il nostro santo si sistema intanto in un romitaggio le dipendenze del monastero a Seiche-Fontaine, questo però per breve tempo, ma sia il luogo che le circostanze non rendevano felice Bruno. Quindi vuole continuare altrove la ricerca di un luogo adatto alla vita solitaria e partì da Seiche-Fontaine con una coscienza chiara e comprendendo quello che Dio voleva da lui. Il nuovo viaggio che ha intrapreso è un cammino che lo conduce verso il deserto monastico in compagnia di pochi uomini, ma sotto la protezione, come vedremo, di un giovane vescovo, Ugo di Grenoble, che poi sarà Sant'Ugo di Grenoble, all'epoca poco più che trentenne e a cui rimarranno, possiamo dire, legate le origini dell'ordine certosino. Proprio per questo, riguardo a questo santo vescovo, è preziosa la documentazione del suo biografo Guigo, che ci descrive meglio questo personaggio, che ebbe tanta parte nel costruire anche lui, nell'aiutare San Bruno nel fondare l'ordine. Scrive Guigo: non erano trascorsi 3 anni da vescovo, riferendosi a Sant'Ugo, che arrivò maestro Bruno, molto celebre per la sua fede e per la sua sapienza, immagine ideale della nobiltà d'animo, della serietà e dell'integrità. Aveva come compagni maestro Landuino, che dopo di lui fu il priore della Certosa, i due Stefano di Burg e di Die, e poi Ugo, detto il cappellano, perché era il solo tra loro a esercitare le funzioni sacerdotali. Infine due laici, che noi chiamiamo conversi, dice Guigo, che si chiamavano Andrea e Guerino. Cercavano un luogo adatto alla vita eremitica e non lo avevano ancora trovato. Essi arrivarono mossi da questa speranza e attratti dal soave profumo della santa vita del vescovo Ugo. Ugo li ricevette con gioia e rispetto, parlò con loro ed esaudì i loro desideri. Con il suo consiglio, il suo aiuto e la sua compagnia, andarono nel deserto di Certosa e cominciarono a costruire. Da qui nasce la parola Certosini. A dire il vero, continua Guigo, egli ardeva, Sant'Ugo, ardeva tutto intero del fuoco dell'amore di Dio, ma grazie all'esempio di questi uomini e alla familiarità con essi, si infiammò per gli esercizi di questo genere celeste di vita. Con loro si comportava non da signore o da vescovo, ma come un compagno e fratello umilissimo, pronto a servire tutti per quanto poteva. Non contento di non comportarsi da vescovo, egli non si comportava nemmeno da compagno, ma piuttosto come un servitore. Fervoroso e zelante, viveva in una tale solitudine che Maestro Bruno doveva talvolta convincerlo a uscire dicendogli: «Andate, andate dalle vostre pecore, fate ciò che dovete loro». In quell'epoca, infiammato d'amore per l'umiltà e la povertà, Ugo decise di vendere tutti i suoi cavalli, distribuire il ricavato ai poveri, andarsene in giro a piedi per predicare. Ma Maestro Bruno, uomo di profondo buon senso, ai consigli del quale egli obbediva, non fu d'accordo con lui. Infatti Bruno temeva che potesse insuperbirsi o che fosse tacciato di originalità dagli altri vescovi. Ebbene, pur diversi nel carattere e anche nell'età, l'accordo di entrambi è perfetto, cari amici. Risultano entrambi indispensabili, come dimostreranno gli avvenimenti successivi, per lo stabilirsi della prima Certosa. Anche per questo attingiamo ad una autorevole fonte letteraria, che è l'autobiografia di Gilberto di Nogent, ancora una volta, che è composta intorno al 1114-1115, che ci fa intravedere alcuni tratti del disegno di vita che San Bruno aveva in mente e che cominciava in quel periodo a nascere. Descrive questo biografo l'inizio della vita certosina. Bruno, lasciata la città, si propose di rinunciare anche al mondo e, fuggendo la compagnia dei suoi, raggiunse il territorio di Grenoble. Là, decidendo di abitare sui fianchi di una montagna ripida e veramente spaventosa, verso la quale si dirige un sentiero molto difficile e non frequentato, ai cui piedi si apre come un abisso una valle molto scoscesa, istituì una forma di vita che qui descrivo, e i suoi seguaci ancora oggi vivono così. La chiesa è situata non lontano dalla scarpata del monte, su un terreno arrotondato in leggero declivio. Vi vivono 13 monaci, i quali, pur avendo un chiostro molto adatto alla vita di comunità, non abitano in esso. Ciascuno infatti ha la propria cella intorno al chiostro, nella quale lavorano, dormono e mangiano. Il luogo, situato in mezzo alla foresta, a 1175 metri d'altezza, è detto Casalibus, per richiamare le capanne di tavole nelle quali si sistemarono i primi compagni di San Bruno. È un luogo inospitale, isolato, povero, al quale si accede soprattutto per una stretta gola, la Cleuse, racchiusa da due pareti rocciosi. E alla scarsa generosità della natura si accompagna l'asperità del clima. Spesso piove, d'inverno le nevicate sono così abbondanti che nell'intera stagione il manto nevoso supera i 4 metri d'altezza e la vallata rimane talvolta isolata rispetto all'esterno. Una condizione difficile, scrive questo biografo, ma una condizione adatta per chi vuole condurre vita eremitica lontano dai rumori del mondo, al riparo dalle agitazioni del secolo. E conclude: il luogo prescelto sembra quasi predestinato. L'austerità del suo sito, la bellezza del suo scenario, gli squarci di luce del cielo quando si apre, un grandioso silenzio, tutti questi elementi sembrano essere stati riuniti dalla natura per farne un vasto tempio della preghiera. come dicevamo poco fa, ancora una volta fu essenziale la presenza di Sant'Ugo di Grenoble, che svolse un'opera di mediazione tra i potenti della regione per convincerli a cedere a Bruno e i suoi compagni che non conoscevano, e non solo, far riconoscere a loro i diritti necessari per possedere questo pezzo di terra che era la Certosa. E comincia, dicevamo così, l'inizio dell'ordine certosino. Qui San Bruno, diversamente dagli altri fondatori di ordini religiosi, non ha lasciato una regola scritta, ma alcuni aspetti della vita della comunità di Certosa possiamo coglierli ancora nella testimonianza sempre di Gilberto. Lo facciamo, cari amici, per non addentrarci nelle leggende o in quelli che sono dei pareri, ma prendiamo notizie storiche precise. Scrive Gilberto, anche per farci capire meglio la vita che c'era allora, qual era la vita di Certosini allora. La domenica ricevono dal dispensatore le vivande, cioè il pane dei legumi, che sono l'unico genere di cibo che ciascuno di loro si cuoce da sé. L'acqua poi, sia per bere sia per tutti gli altri usi, l'hanno da un condotto di sorgente che gira attorno alle celle di tutti e che attraverso dei fori appositi la fa fluire alle singole celle. La domenica e nei giorni di grande festa fanno uso di pesce e di formaggio. Di pesce però non che essi comperano, ma che ricevono in dono da alcuni uomini buoni. Da nessuno accettano oro, argento e ornamenti per la chiesa. In essa infatti non vi è nulla oltre a un calice d'argento. In questa medesima chiesa si ritrovano non alle ore solite come noi, ma in altre. Non parlano quasi mai. Se è necessario chiedere qualcosa, lo chiedono con un segno. Sulla pelle indossano il cilicio. Tutte le altre vesti sono molto leggere. Vivono sotto un priore. Le funzioni dell'abate poi e dell'approvvigionatore le svolge il vescovo di Grenoble. Sebbene si abbassino a una povertà che abbraccia ogni genere di cose, hanno radunato tuttavia una ricchissima biblioteca. Quantomeno infatti sovrabbondano di questo pane materiale, tanto più lavorano con sudore per quel cibo che non perisce ma che rimane in eterno. Quel luogo poi viene detto Chartreuse. In esso è coltivata cereali solo poca terra. Ogni altro prodotto della terra invece, che serve ai loro usi, sono soliti acquistarlo grazie alle pelli delle loro pecore che allevano in grande quantità. Vi sono inoltre ai piedi di quel monte delle abitazioni in cui vivono dei laici fedelissimi, che oltrepassano il numero di 20, i quali vivono sotto la loro custodia e sorveglianza, quindi sotto la custodia e la sorveglianza dei padri. Essi dunque sono trasportati da un fervore così grande nella contemplazione intrapresa, che mai tralasciano il loro proposito, né mai si intiepidiscono nel lungo protrarsi di quell'arduo genere di vita. Ma vorrei approfondire ancora di più per vedere anche la bellezza di quest'ordine. E infatti un altro documento storico importante è quello di un altro grande abate, un abate di Cluny, ed è di Pietro il Venerabile, anche poi grande amico di San Bernardo. Scrive, a proposito dell'ordine certosino di San Bruno, lo scrive anche in modo, perché lui stesso era affascinato da questo tipo di vita. Scrive, sia i sani che i malati si astengono sempre da ogni tipo di carne. Solo la domenica e il giovedì consentono l'uso del formaggio e delle uova per nutrirsi. Il martedì e il sabato fanno uso di legumi e di verdura cotta. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì si accontentano di avere solo pane e acqua. Mangiano sempre una sola volta al giorno, fuorché nelle ottave del Natale del Signore, di Pasqua e di Pentecoste, nell'Epifania del Signore, alla sua presentazione, cioè nella festa della purificazione di Maria Santissima, all'Annunciazione del Signore, all'Ascensione, all'Assunzione e alla Natività di Maria Santissima e ancora nelle feste dei 12 Apostoli, di San Giovanni Battista, di San Michele, di San Martino e infine nella festa del 1 novembre, che viene celebrata, dice Pietro il Venerabile, come la festa di tutti i santi. Oltre a tutto ciò, essi abitano sempre, secondo il costume degli antichi monaci egiziani, in celle singole, nelle quali si dedicano senza sosta al silenzio, alla lettura, alla preghiera e al lavoro manuale, soprattutto mediante la copiatura di libri. Questa era un po' la vita che c'era allora, ma guardate che non è molto diversa quella che oggi vivono in quest'ordine. Pensiamo che da settembre a Pasqua fanno praticamente un pasto al giorno, da Pasqua a settembre fanno solo una cena al giorno, quindi si perpetua questa rigorosità in quest'ordine. Dove è bandita la televisione, sono banditi i giornali, è bandita la radio, non c'è comunicazione con l'esterno, l'unica persona che può portare delle notizie dall'esterno è il priore. Quindi è di una grandissima rigorosità, ma di una grande santità anche, dobbiamo dire. Ma arriviamo al 1089, cari amici. Quindi non erano trascorso neanche 6 anni da quando era iniziata la loro avventura, quando Bruno dovette abbandonare questo amato deserto della Certosa francese, lasciare i suoi confratelli e recarsi a Roma. Infatti, per ordine di Papa Urbano II, di cui un tempo era stato, dicevamo, professore, si recò presso la curia romana per aiutarlo negli affari ecclesiastici, sia con la sua santità soprattutto, e con il suo consiglio. E sta di fatto che l'appello di Urbano II giunse in un momento difficile per la sede papale, al centro dello scontro tra i seguaci del Papa e quelli dell'antipapa Clemente III, che aveva praticamente messo in piedi, sostenuto dall'imperatore di Germania Enrico IV. Al fianco di Urbano invece c'erano i normanni dell'Italia meridionale e la contessa Matilde di Canossa nel nord. E la convocazione di Bruno a Roma va letta alla luce proprio dei rapporti personali che avevano legato Urbano e il suo antico maestro quando erano a Reims. Urbano lo aveva ben conosciuto, Bruno, ne aveva sperimentato la sapienza, la grandezza, le sue doti di equilibrio, il rigore morale. Il nostro santo quindi obbedì con prontezza, era il Papa, forse anche con la speranza di avere successivamente il modo, una volta giunto a Roma, di far comprendere a Urbano il suo desiderio di tornare a vivere in quella che sentiva la sua chiamata, nella solitudine, nel deserto. E possiamo dire, cari amici, che proprio nei momenti di crisi risalta meglio il carattere, la personalità del nostro santo. Pensate, dopo essere vissuto nel mondo, ricevendone onore e agiatezza, a 27 anni era già responsabile della famosa scuola di Reims, dopo questo si era ritirato, dopo aver a lungo maturato questa scelta, quindi a 53 anni, si ritira in questo deserto inospitale della Certosa, impegna tutto se stesso in questo progetto di vita austero, rigoroso, pieno di ostacoli di ogni genere, e finalmente, quando il disegno si è attuato, ogni cosa viene rimessa in gioco. Il Signore gli chiede questo. A Bruno è chiesto di lasciare tutto, di intraprendere quindi un nuovo cammino, provate a pensare. E lui lo accetta. E proprio in questa accettazione possiamo leggere un aspetto importante del suo essere, cioè la capacità di sacrificio, la rinuncia persino a se stessi, se questo è richiesto dal Signore per il bene della sua Chiesa. E qui, cari amici, sacrificio e rinuncia non sono dei semplici modi di dire, perché il primo effetto della decisione di Bruno di raggiungere Urbano II a Roma fu proprio la disgregazione della sua comunità certosina in Francia. La comunità, scrive uno studioso, Don Gerardo Posada, ricevette un colpo durissimo, apparentemente mortale. Maestro Bruno per loro era tutto: padre, fondatore, consigliere, esempio, regola. Il decadimento che ne derivò fu così grande, così fulmineo, che alcuni monaci addirittura se ne andarono. E i problemi legati alla nuova situazione erano molti. Anche i beni stessi del monastero, se l'eremo fosse stato sciolto, allora sarebbero divenuti beni ecclesiastici vacanti e quindi facilmente preda di numerosi pretendenti. E la soluzione trovata da Bruno fu quella di cedere tutto a un'abbazia, l'abbazia della Chaise-Dieu. E fu questo il momento, cari amici, in cui si compì, possiamo dire, l'olocausto spirituale del nostro santo. Infatti il documento di cessione venne letto probabilmente da lui stesso nella sala capitolare dell'abbazia la presenza della comunità e di Sant'Ugo. In quel momento, quello che aveva costruito, su cui aveva sofferto, il grande sogno della sua vita svaniva, ma offriva a Dio, senza nessuna riserva, tutto quello che restava. Era così convinto della sua decisione, ma anche così profondamente disinteressato, che non incluse neppure una clausola di retrocessione nell'eventualità, in quel momento remota, che i suoi compagni, che si dibattevano ancora tra la fiducia e il pessimismo, cambiassero parere. E sulle prime la comunità si sbanda, i monaci si disperdono. Poi, dopo un periodo che non è facile stabilire con precisione, ritornano sui loro passi, superano lo scoraggiamento, inizia il ritorno. Inizia il ritorno proprio incertosa, convinti anche in parte dallo stesso Bruno, che chiede a loro di rimanere e nomina come superiore, prima di cominciare il suo viaggio, il suo ritorno a Roma, nomina un grande priore, un suo carissimo amico, Landuino. Lui intanto torna a Roma, e a Roma, grazie a Urbano II, si sciolse anche il problema dei possedimenti. Lui li aveva ceduti all'abbazia di Chaise-Dieu, e la stessa abbazia glieli restituì su invito del Papa. Ma tornando a Urbano II, sappiamo che il sostegno, anche il consiglio, la presenza di Bruno vicino a Urbano II fu prezioso. Il Papa in quegli anni si trovò impegnato su più fronti: lo scontro con la fazione imperiale e con l'antipapa, l'impegno sulla scia dei suoi predecessori, in modo particolare di Gregorio VII, per la riforma della Chiesa contro la simonia e il concubinato del clero, la gestione anche ordinaria della curia, che della curia pontificia, non sempre facile da guidare. Ma nonostante tutto, il disagio di Bruno fu grande a Roma. Infatti leggiamo che, non sopportando il tumulto e il modo di vivere della curia, desiderava ardentemente la solitudine e la quiete perduta. E questo, cari amici, è un altro momento decisivo della sua vita. Ha obbedito al richiamo del Papa, ha lasciato la certosa francese rischiando di veder disperdere, di dissolversi tutto quanto aveva costruito. Si è recato a Roma per stare vicino al suo vecchio allievo in momenti difficili. Si è immerso di nuovo, come già a Reims, nei problemi più spinosi della Chiesa del suo tempo, ma nel suo cuore la vocazione al deserto prevale e il richiamo alla vita contemplativa è sempre fortissimo. Comunque, quando Bruno si sia mosso da Roma non si può stabilire con certezza, anche se sembra ragionevole ritenere che vi sia rimasto fino agli inizi dell'estate del 1090, quando la città fu riconquistata dall'antipapa Clemente III e quindi Urbano, insieme a Urbano II, fu costretto a fuggire nell'Italia meridionale. L'Italia meridionale che era sotto il controllo dei Normanni, quindi degli alleati del Papa. E in ottobre sono a Salerno, a novembre a Capua, poi si spostano a Benevento, dove si tiene un sinodo solenne. Finalmente nel giugno del 1091 giungono a Mileto, sede del conte normanno Ruggero d'Altavilla, che era signore della Calabria e della Sicilia. Proprio in quel periodo muore anche l'arcivescovo di Reggio Calabria e Urbano decide di sostituirlo con una grande personalità, quindi con San Bruno. E mentre Urbano II, gli espone le ragioni della sua scelta e insiste perché accetti, Bruno apre il suo cuore e gli confida tutta la sua sofferenza. Cioè, accettare la carica significa rinunciare per sempre alla solitudine, che è l'unico ambiente in cui egli possa vivere. Urbano capisce, non insiste oltre, e nomina per Reggio un monaco benedettino, Rangero. Ma non dimentica Bruno. Gli propone quindi di andare nella capitale di allora, a Mileto, presso il conte Ruggero come ambasciatore. La sua missione laggiù consisterà nel tener viva l'amicizia del conte con la Santa Sede. Urbano lascia forse a Bruno la speranza che Ruggero gli avrebbe fatto dono nei suoi possedimenti di un luogo solitario in cui avrebbe potuto condurre la vita che desiderava pur svolgendo il suo compito di ambasciatore. E così infatti accadde. E Bruno questa volta accetta. Certo, non sono le montagne di Chartreuse, non è la solitudine completa, ma non è nemmeno la prospettiva di un episcopato o lo strepito degli affari romani o il tumulto della corte pontificia. Parte quindi con Lanuino L'Anduino non è l'Anduino, attenzione, l'Anduino è il suo successore alla Chartreuse in Francia, mentre l'Anduino sarà a fianco a lui e un'altra, e un bravissimo priore sarà beatificato anche l'Anduino, sarà il suo successore quando alla morte di San Bruno, sempre nell'abbazia, nella Certosa di in Calabria. Quindi parte, dicevamo, con l'Anduino e nell'autunno del 1090 arriva a Mileto. E questo è, possiamo dire, un piccolo evento. Il Papa ha avvisato anche il conte che Bruno è una grande personalità, per lui è un santo, che ha vissuto da eremita per anni nelle montagne del Delfinato e che è stato anche suo professore. E il conte Ruggero lo accoglie quindi con grande rispetto, con ammirazione. E anche con l'Anduino stringe immediatamente i legami. Oltretutto l'Anduino era un normanno, quindi erano, diciamo, compaesani in un certo senso, erano normanni entrambi. Si parla, tra le tante cose, della Chartreuse, di questa vita per il conte un po' strana, ma in cui intravede la bellezza anche senza capirla, è affascinato dalla personalità di San Bruno. Perciò quando un giorno l'Anduino gli fa capire che Bruno desidera sempre vivere nella solitudine e che Papa Urbano gli permetterebbe sicuramente di stabilirsi nei suoi territori, il conte Ruggero se ne rallegra e si ripromette di sistemare ogni cosa quando il sommo pontefice verrà in primavera a Mileto. Così al suo arrivo a Mileto, Urbano trova tutto già preparato in anticipo proprio grazie all'abilità di l'Anduino. In questa primavera del 1091, Bruno, insieme al suo, quello che sarà il suo successore, il beato l'Anduino, e alcuni nuovi compagni, quindi pensate, già la presenza di Bruno in Calabria aveva richiamato vocazioni. Delle persone erano già disposte a seguirlo, a scommettere su di lui. Dicevamo, Bruno Anduino e alcuni nuovi compagni si mettono con Ruggero alla ricerca di un luogo solitario dove potranno far rivivere il deserto di Chartreuse. E lo trovano a 25 km da Mileto, e ovviamente meno austero della campagna parigina, del deserto parigino francese, ma Bruno non dispiace. Tutto quindi sembra andare per il meglio, c'è un solo neo. Il conte Ruggero non ha nessuna idea della vita monastica e vuole donare terre, molte terre. Bruno teme questa cosa, si difende perché non vuole avere possedimenti. E questo, sotto un certo aspetto, si scontra un po' con quello che è il pensiero di l'Anduino. L'Anduino è un uomo attivo, quindi volentieri costruirebbe qualcosa di semplice ma di grande, insomma un tipo di abbazia benedettina in cui sarebbe non soltanto in Calabria ma su tutto il paese. Bruno invece vuole soltanto qualche povera cella intorno a una modesta cappella, il monastero più umile e più povero possibile, dove alcuni monaci possano vivere in solitudine nella verità e nella ricerca di Dio. Viene quindi costruita questa nuova certosa e San Bruno mise il nuovo monastero, come aveva già fatto a Chartreuse, sotto la protezione della Vergine Santissima, di cui oltretutto era devotissimo, e anche di San Giovanni Battista. Ebbe così inizio la vita nel deserto in Calabria. Dopo un po' di tempo si decise a fare un altro tentativo. Il nostro San Bruno presso il suo carissimo amico Rodolfo il Verde, un amico mai dimenticato. Insomma, da 12 anni sospirava la sua venuta. Rodolfo era invecchiato a Reims, era diventato un personaggio di primo piano, prevosto del capitolo con una fortuna considerevole, era un ecclesiastico edificante, un uomo eccellente. Aveva continuato la corrispondenza con Bruno e Bruno era sempre convinto che un giorno il suo vecchio amico sarebbe stato fedele e l'avrebbe raggiunto. C'era grande sintonia fra questi amici, perché tali rimasero comunque. E vediamo che comunque la solitudine non ha sminuito questo affetto profondo tra i due. E leggo questa brevissima lettera di questo stralcio, uno stralcio di una lettera che San Bruno scrive al suo amico Rodolfo, e gli scrive: la fedeltà a una vecchia e provata amicizia che si vede in te è tanto più ammirevole e degna di elogio quanto più è raro incontrarla tra gli uomini. Quindi un'amicizia vera, profonda. Sebbene, scrive Bruno, sebbene infatti una grande distanza e un ancor più lungo spazio di tempo abbiano tenuto separati l'uno dall'altro, tuttavia i tuoi sentimenti di affetto non è stato possibile tenerli lontani dall'amico. È caso molto raro in quell'epoca, che mostra quanto Bruno sia felice in quel periodo, contento, descrive anche ampiamente le bellezze della Calabria. E sempre in Calabria sappiamo che il nostro santo ha rivisto e corretto il suo commento sui Salmi, scritto un tempo a Reims. Intanto la presenza di Bruno e la sua santità attirano molti giovani, molte vocazioni. E il conte Ruggero se ne compiace e vuole donare altre terre, non solo intorno al monastero ma anche lontano. Bruno ancora una volta rifiuta. Vuole la povertà. Prevede che queste terre richiederanno molta cura, che le anime, anche se non vi si attaccheranno, perderanno però la loro purezza. Teme sempre che si vada poi oltre, si perda lo stile, il rigore, la via che è stata tracciata. Arriviamo così al novembre del 1095, quando Urbano II predica la crociata. 4 anni dopo, nel 1098, il Papa muore. È un grande dolore anche per il nostro San Bruno, così amico. Proprio in questo periodo, però, vediamo arrivare in Calabria il priore di Chartreuse, che è l'Anduino. Ha voluto vedere un'ultima volta il suo vecchio maestro, raccogliere i suoi ultimi insegnamenti, anche i suoi ultimi consigli. E Bruno, dal canto suo, vuole essere messo al corrente di tutta la vita di Chartreuse. Sogna di tornare almeno una volta, ma non deve pensarci, perché il nuovo Papa, Pasquale II, gli ha ordinato di rimanere vicino al conte Ruggero. E l'Anduino, che ha un amore sviscerato per questo suo padre spirituale, vorrebbe rimanere oltre il dovuto, ma non può. E più di tutto lo sa Bruno, che prima di separarsi gli consegna una lettera per i tanti confratelli che ha lasciato in Francia. E scrive con il cuore in mano. E leggo questa lettera stupenda, che ci fa capire la grandezza di quest'uomo, di questo santo. Ho appreso, scrive, scrive ai suoi confratelli in Francia, ho appreso dell'inflessibile rigore della vostra disciplina, che è ragionevole e veramente degna di lode, grazie alla dettagliata e consolante relazione del nostro beatissimo fratello l'Anduino. Il mio spirito esulta nel Signore. Perciò, fratelli miei, considerate come cosa certa e provata che chiunque abbia goduto di un bene così desiderabile, se in qualche modo verrà a perderlo, se ne dorrà fino alla morte. Infine parla di l'Anduino e comunica il suo desiderio di rivederli, ma riportiamo il brano perché ci descrive anche l'atmosfera che regnava allora nella Chartreuse in Francia. Scrive San Bruno: avrei voluto trattenere presso di me il fratello l'Anduino a causa delle sue gravi e frequenti infermità, ma poiché ritiene che senza di voi niente per lui sano, niente gioioso, niente vitale e utile, non ha consentito, dimostrandomi con il profluvio di lacrime versate per voi e con molti sospiri, quanto valete per lui e con quale perfetta carità ami tutti voi. Per questo non ho voluto esercitare alcuna costrizione, per non fare del male a lui e a voi che mi siete carissimi per il merito delle vostre virtù. Pertanto, fratelli miei, premurosamente vi avverto e umilmente ma con forza vi prego di mettere in atto la carità che avete nel cuore per lui, in quanto vostro priore e padre carissimo, procurandogli con benevolenza e attenzione le cose che a causa delle sue numerose infermità gli sono necessarie. forse lui non vi consentirà di esercitare questi servizi di umanità, preferendo mettere a repentaglio la sua salute e la vita, anziché tralasciare alcunché del rigore della disciplina corporale, la quale cosa deve essere assolutamente disapprovata. Probabilmente, scrive San Bruno, si vergognerà lui, che è il primo nella comunità, di apparire l'ultimo su questo punto, per paura che a causa sua qualcuno di voi diventi più rilassato o più tiepido, cosa che io ritengo non sia da temere in alcun modo. In questo caso, scrive San Bruno, in questo caso, per non essere privati di tale grazia, concedo a voi, che siete tanto pieni di carità, di fare le mie veci solamente riguardo a questo. Vi sia cioè consentito di obbligarlo, rispettosamente, a prendere tutto ciò che gli darete per la sua salute. Quanto a me, fratelli miei, sappiate che il mio unico desiderio, dopo Dio, è quello di venire da voi e di vedervi, e quando potrò, lo porrò in atto con l'aiuto di Dio. Addio. E durante questi ultimi giorni, Bruno circonda l'Anduino del più grande affetto. E l'Anduino trova il suo vecchio maestro quasi trasformato. Si rende conto che è trasformato proprio nell'amore, nel dolore, nella gioia. Lo lascia con tristezza, ma anche con la gioia intima di chi per un istante ha intravisto su un volto l'irradiazione di Dio. E arriviamo anche agli ultimi anni. L'Anduino è partito e Bruno ritorna ad essere in un certo senso solo, in quello spogliamento totale che Gesù gli chiede. Ma tutto offre al Signore, come sempre, gioia e dolore. Diranno i fratelli in Calabria, Bruno aveva sempre il volto in festa, quindi la sua sofferenza, le sue prove, il suo dolore non è mai manifestato agli altri. Il suo volto era di gioia, aveva Gesù nel cuore, non poteva essere diversamente. E la vita continua come se niente fosse cambiato. Bruno si occupa dei malati ed essi ne conserveranno il ricordo per tutta la vita. Per loro viene detto la tenerezza di una mamma, a loro dona la gioia. Eppure, dicevamo, non gli mancano le sofferenze. Pensate, infatti, nel viaggio di ritorno, l'Anduino, che già ammalato, è stato catturato dall'antipapa Guiberto. La sua prigionia è breve, e questo è vero perché Guiberto muore, ma l'Anduino, che è già molto ammalato, ne esce provato, e anche lui muore in un monastero lontano dai suoi, quindi a Chartreuse non lo vedranno mai più, lo vedranno in paradiso. Dopo un anno muore anche il conte Ruggero, con il quale aveva stabilito anche un rapporto di amicizia, di stima. Insomma, l'uno dopo l'altro, tutti quelli che Bruno ha conosciuto e amato anche muoiono. Eppure non è mai stato così affettuoso, raggiante di gioia e di bontà verso i suoi. Sente che è arrivata anche il suo momento. In fondo il cuore sente una voce che è quella voce che ha sentito una volta e che l'ha condotto nel deserto. È Gesù che lo chiama di nuovo. E così a poco San Bruno arriva al suo ultimo giorno. Siamo nell'ottobre del 1101. È ammalato gravemente, i suoi fratelli sono intorno a lui e lui vuole che siano tutti presenti, vuole che conservino il ricordo del suo amore grande per loro fin sul letto di morte. Raccoglie, chiede perdono delle sue mancanze, e poi raccoglie le sue forze. Professa la fede nella quale ha vissuto, nella quale desidera morire, riceve l'unzione degli infermi e per l'ultima volta fa la comunione. Muore così, cari amici, un grande santo, nell'abbraccio di Gesù il 6 ottobre 1101, San Bruno a 71 anni.